Allora, oggi amici di Festival abbiamo con noi Antonello. Antonello è uno dei 12 giovani artisti che quest'anno, tra un mese circa, parteciperanno al 56esimo Festival della Canzone Italiana ed è anche uno dei 3 ragazzi selezionati da Sanremo Lab. Benvenuto Antonello e grazie per essere con noi. Come stai? Benissimo, benissimo Alessandra. Vabbè, allora mi presento subito. Io vi dico che mi chiamo Antonello, però dalla nascita sono Antonello, anche se sono registrato come Antonio Carozza all'anagrafe. Vi posso dire che la musica, tra virgolette, ci sono nato perché vengo da una famiglia di artisti. Mia mamma era una cantante, mio zio maestro d'organo, mio padre è un ex DJ, quindi da piccolissimo già passavo il tempo tra discoteche, teatri dell'opera, concerti di musica classica, quindi voglio dire, la musica mi è entrata dentro da allora. Poi all'età di 3 anni così ho iniziato già a fare le prime audizioni per partecipare allo Zecchino d'Oro, quindi là è iniziato tutto da lì. Infatti leggevo che c'era questa cosa molto carina di due edizioni, ben due edizioni dello Zecchino d'Oro. Mi sembra di essere arrivato in semifinale, sono andato tutte e due le volte a Bologna, ho conosciuto Cristina D'Avena, quindi per me era una cosa bellissima, allora ero piccolissimo, non è che ricordo tanto, però è stata comunque una bella esperienza forte, ma poi ce ne sono state altre. Innanzitutto, vabbè, la mia passione per la musica si è accresciuta ed è continuata quando avevo neanche 5 anni, sono entrato per caso in una classe di pianoforte e da lì ho capito che quello strumento mi piaceva veramente e mi sarebbe piaciuto suonarlo e continuare a suonarlo e studiare tanto, perché sapevo che comunque bisognava studiare, lo studio è importante, e per questo ho deciso anche all'età di 10 anni di entrare in conservatorio, iscrivendomi nella classe di pianoforte, ho portato avanti gli studi anche brillantemente direi, con ottimi voti, sono arrivato alle soglie di un diploma di pianoforte. Che non è poco, Che non è poco, insomma, è difficile, sai, quando sei ragazzo stare lì a studiare mentre i tuoi amici vanno a giocare a pallone. Beh, richiede molta disciplina quantomeno, perché... richiede molta disciplina, ma io lo facevo volentieri perché, insomma, è stata la mia passione da subito e io lo facevo comunque con piacere, mi piaceva suonare, mi piaceva cantare anche, stando vicino al pianoforte. Ho iniziato così a cantare e a suonare all'età di 14 anni a casa. Comunque tu sei giovanissimo, perché leggo che hai 20 anni, quindi hai già una serie di esperienze importantissime alle spalle e hai soltanto 20 anni, quindi complimenti. Praticamente sì, giovanissimo, non lo so. Beh, 20 anni sei giovanissimo. Lasciatelo dire, sei giovanissimo. Comunque veramente mi sembri un ragazzo molto determinato, questo io riesco ad avvertire in quello che dici e da come ti racconti, e questo secondo me è una carta vincente in questo mestiere. Sono sempre stato determinato nelle cose e nelle scelte che ho fatto nella mia vita, perché io penso che la determinazione sia la carta vincente, come hai detto tu poco fa, perché voglio dire, se uno una cosa, un obiettivo vuole raggiungerlo a tutti i costi, serve quella e anche e soprattutto tanta tanta passione nelle cose che fa, voglio dire, è sicuramente la particolarità che mi contraddistingue, la determinazione che mi ha fatto arrivare a raggiungere vari obiettivi che mi ero prefissato. E uno di questi è stato quando ero alla soglia di 18 anni, è stato l'obiettivo di entrare nella scuola di amici, poi una volta raggiunto quello me ne sono prefissati altri. Mi sembra anche giusto, perché uno poteva sentirsi arrivato in un certo senso, invece lì era semplicemente un trampolino di lancio. Praticamente mi ha dato solo la possibilità di avere un po' di visibilità e di confrontarmi con altri ragazzi e con maestri che comunque erano di alto livello, e questo voglio dire, mi è servito, ma adesso c'è altro, e nella vita io penso che uno non bisogna fermarsi, voglio dire, il Festival di Sanremo è arrivato subito dopo e questa è stata una cosa bellissima. non ti nascondo che la cosa che mi fa più piacere in tutto questo è che, voglio dire, è stata una canzone che ho scritto io. Perché tu sei cantautore, tu scrivi musica, testi. Praticamente sì, perché grazie al fatto che avevo studiato la musica, le conoscenze per scrivere le ho apprese e quindi, avendo studiato tanto, voglio dire, mi sono applicato anche nello scriverle. Mi sembra anche giusto. E le ispirazioni mi vengono così, non so neanche spiegarmi come, però ne scrivo tante di canzoni. Una di queste è stata abbiamo deciso io e colui che poi è diventato il mio manager, che è Salvio Pietroluongo, e poi è diventato anche il mio produttore, ha deciso di produrre Antonello perché ha creduto in lui. Abbiamo deciso insieme di mandare, per caso tra l'altro abbiamo fatto l'iscrizione all'Accademia di Sanremo, e abbiamo deciso insieme di mandare questo brano che a noi piaceva tanto, a me che l'avevo scritto principalmente, ma il bello è che quando scrivi una cosa non devi scriverla solo per te. No, però è ovvio, insomma, che uno ci crede, no, in quello che sta scrivendo. Io credo in quello che scrivo, certo. Poi purtroppo... Però hai convinto anche gli altri, evidentemente. Forse ho convinto anche qualcun altro, sicuramente la commissione dell'Accademia di Sanremo e la commissione artistica della RAI. Io spero di convincere tutta la gente a casa, questo è l'obiettivo. E questo te l'auguriamo di vero cuore. Penso che il pubblico in genere, non solo i professionisti, siano quelli che insomma fanno grande un cantante. Non solo sicuramente. Poi sai, il pubblico capisce, come si dice, la verità che c'è dietro ogni artista. La verità, il pubblico è quello a cui arrivano le emozioni più forti e magari le prende semplicemente queste emozioni, mentre un critico o una commissione sta lì a guardare tecnicamente come è arrangiato il pezzo, come può funzionare magari, come può arrivare alla gente, però certo. È sempre la gente il primo giudice di qualsiasi cantante, di qualsiasi artista, voglio dire. Su questo sono pienamente d'accordo con te. Io ti volevo chiedere, so che stai preparando anche un album che uscirà dopo Sanremo, parlacene brevemente. Sì, l'album è nato appunto da questo progetto che c'era prima di fare questa iscrizione all'Accademia di Sanremo, poi quella è stata una cosa che è venuta per caso. Però per fortuna che c'è stata, perché forse rafforzerà insomma l'uscita di quest'album, cioè, avendo io la possibilità di esibirmi al Festival di Sanremo. Certo, il titolo di quest'album? Il titolo di quest'album è Lavoro in Equazione, che è uno dei brani che ci sarà nell'album, ma nell'album ci sarà anche la canzone di Sanremo che capirò che uscirai. Lavoro in Equazione è anche il titolo di uno dei brani dell'album sul quale io e il mio produttore crediamo, è un altro brano sul quale puntate tantissimo, sul quale puntiamo tantissimo, quindi abbiamo deciso di dare il nome Lavoro in Equazione a quest'album. È un album che parla d'amore o parla anche... L'album non parla solo d'amore, eh? La canzone di Sanremo soprattutto non parla solo d'amore, anzi la canzone di Sanremo parla della vita. Bene. Parla della vita e praticamente mette in risalto le cose fondamentali, importanti della vita, che sono sicuramente l'amore, i sogni, le passioni, gli affetti familiari. La canzone vuole lanciare il messaggio che è un messaggio tra virgolette standard, però io ho cercato di dirlo a modo mio, insomma, nel testo della canzone, che bisogna tenersi strette queste cose, perché sono le cose che rendono felici una persona, l'uomo, e perché la vita può rappresentare tante insidie e difficoltà che a volte ti fanno andare giù di morale, psicologicamente. Certo. sta rendendo come me una carriera, la mia carriera è tutta in salita. Quindi nella canzone c'è anche una presentazione di me. E in questa canzone io dico che adesso sto provando ad emergere, che il mio sogno sta continuando e questa favola è tutta ancora da scrivere. Però do un messaggio a tutti, è quello che penso anch'io, che le cose importanti è importante che ognuno se le tenga strette. Non bisogna perdere di vista i valori più profondi, diciamo, Non bisogna questo perdere di vista i valori più profondi, è sicuramente è la cosa più giusta forse da dire. Ti ringrazio di questo è. che. No, io, ecco, semplicemente facevo una specie di chiusura a questo tuo, fra l'altro, discorso che ti descrive molto bene, cioè, riusciamo a capire benissimo che sei un ragazzo che non si ferma appunto all'aspetto superficiale delle cose e questo è importante. Come dicevamo prima, alla gente questo arriva. Cioè, se sente profondità e valori veri in una persona, la segue di più perché la sente molto vicina alle Io problematiche di no, tutti i giorni. guarda, forse non ti sembrerà neanche adesso da come ti sto parlando, un po' mi impappino, come Non ti si dice, preoccupare, però se. nei testi cerco di essere il più chiaro possibile, nei testi delle mie canzoni cerco di essere il più chiaro possibile e i messaggi che voglio dare sono molto profondi e cerco di dirli con parole semplici. Le mie canzoni non parlano tutte d'amore, parlano di tante cose che succedono, che possono succedere a ognuno di noi, che sono successe a me in prima persona, ma a volte mi riferisco anche a cose che vedo Certo. in altre persone. Quindi cerco di dare messaggi importanti, cerco di raccontare storie importanti e profonde, ma e questo poi non so se arrivi o meno alla gente, io spero di sì. Però comunque una cosa che mi sono dimenticato di dirti, una cosa tecnica più che altro, è che Dimmi. l'album comunque è in uno stile pop rock. Sì. E ha anche delle influenze di rock sinfonico, c'è molta musica, è molto suonato, C'è anche una ricerca, diciamo, c'è anche una di ricerca sonorità. di sonorità e di ritmi diversi che cambiano, anche all'interno di un brano solo cambiano più volte, sonorità, ritmi e comunque sia, spero che questo abbia un impatto sulle persone perché è stata una ricerca lunga, è stato un lavoro di 6 mesi e insomma, io spero di aver trovato la chiave giusta, però ho scritto col cuore e gli arrangiamenti che ho fatto in collaborazione con il chitarrista che è stato anche arrangiatore insieme a me dei brani, Sì. sono stati fatti secondo quello che piaceva più a noi. È ovvio che la gente può pensare che gli piaccia o no, può trasmettere emozioni o no, però io ho cercato di dare tutto me stesso, quindi Certo, ti doveva rappresentare questo disco. è sicuramente un disco che mi rappresenta, che rappresenta il mio stile di cantare, lo stile di musica che preferisco e la musica mi piace, quindi io non mi sono risparmiato assolutamente nei brani, ho cercato di metterci tutto quello che avevo e spero Arrivi. che questo arrivi. Questo te lo auguriamo di vero cuore e io chiuderei facendoti una domanda. Senti di dover dire grazie a qualcuno per questi obiettivi che hai raggiunto o soltanto alla tua determinazione e alla tua grande passione per la musica? Io sento di dover dire grazie principalmente al mio produttore che è stato Fabio Petrolongo e che in questo caso è diventato anche il mio editore per quanto riguarda Sanremo ed è anche il mio manager Quindi la mentre persona lui che ti segue in assoluto più da mi segue in vicino e ti assoluto dalla consiglia. mattina alla sera e crede in me e pensa. Lui pensa forse più di me che io possa diventare grande. Io, guarda, vado sempre con i piedi per terra, un passo alla volta. Lui invece me lo dice sempre, tu puoi diventare grande. Io spero di diventare grande che la gente tutta vi conosca, che tutta l'Italia, e spero anche fuori, ma che ne so, ma magari riuscisse ad arrivare a tutti. Però l'obiettivo, quello che ho sempre sognato, è forse non fare il Festival di Sanremo o il Festival Bar o qualsiasi altra manifestazione che potesse mettermi in luce. Quello che ho sempre sognato è che le mie canzoni possano ascoltarle tutte, tutti, e tutti intendo gli italiani principalmente. Questo sta avvenendo, il sogno più grande è stato questo. Poi spero anche che piacciano e quindi magari mi aiutino, il pubblico stesso mi aiuti ad andare avanti e magari fare altri lavori, altri album, a pubblicare altri album, e quindi fare in modo, cioè il pubblico, io penso che faccia in modo che un assolutamente sì continui la sua carriera, assolutamente quindi. Sì, ma anche avere vicino una persona come il tuo manager che ti sostiene, credo che sia molto molto importante, questo è molto molto importante. Quindi sei stato fortunato anche da questo punto di vista, secondo sono me sono stato fortunato. Beh sì, è nato tutto per caso, i musicisti per l'album sono stati scelti per caso, ma sono state tutte lui crede molto nel destino, anche io ci credo. Sono successe una serie di cose in questi mesi che ci hanno fatto pensare e a volte riflettere sul fatto che molte cose nate per caso sono andate benissimo, e quando poi ci riflettiamo, io e lui a quattro occhi diciamo, ma com'è possibile? Tutta una serie di coincidenze magiche. Ecco, una serie di coincidenze magiche che ci hanno portato al Festival di Sanremo, e ce ne sono state troppe, guarda, Alessandra, ce ne sono state troppe, secondo me continueranno, cioè secondo me è il destino, non lo so, però... Certo. Noi ti auguriamo che queste circostanze magiche continuino ad accaderti, perché te lo auguriamo di vero cuore, e ti diciamo veramente in bocca al lupo per questa tua partecipazione, per questo tuo grande debutto al festival. Ti saremo vicini. Spero che non rimanga un debutto al festival e basta. No, magari. Questo assolutamente no, anche perché secondo me la tua determinazione e il tuo entusiasmo e quello anche del tuo manager vi porterà sicuramente lontano. Comunque, ecco, io ti ringrazio per questa intervista che sei stato così gentile da rilasciarmi. Ringrazio anche io te e volevo fare un saluto a tutti gli amici di Festival Blogosfere. Grazie Antonello, anche a nome di tutti i miei lettori, e sicuramente continueremo a seguirti e a fare il tifo per te. Ti in bocca al lupo. Un abbraccio a tutti quanti. Ciao Antonello. Ciao, ciao.